torture hanno mediato lo spirito dell'uomo, ucciso Giordano Bruno, massacrato gli artisti Leonardo, perseguitato l'amore nel mondo. Cosa ci ha insegnato la storia? Sembra che l'uomo non ha memoria. Innocenzo III fu un assassino, Gregorio il Grande un piccolo uomo. I domenicani hanno massacrato i catari, i templari, i valdesi. In nome di chi avete ucciso il diverso? Ma non era scritto: ama il tuo prossimo come te stesso. Per potersi fare perdonare non basterebbero miliardi di preghiere. Chi si è arricchito con il sangue del giusto è un assassino, ha tradito il Cristo. Lontani da me, ipocriti credenti, voi allontanate il Padre dalle genti. Avete perso la strada del cielo, su di voi ricadrà giudizio divino. Io sono nato a Roma, ma non sono cristiano, almeno per quello che rappresenta il Vaticano. Hanno costruito un impero, ridotto l'uomo a uno schiavo, tagliato le radici con il divino, fatto a pezzi chi aveva un altro credo. Per potersi fare perdonare non basterebbero miliardi di preghiere. Chi si è arricchito con il sangue del giusto è un assassino, ha tradito il Cristo. Lontani da me, ipocriti credenti, voi allontanate il Padre dalle genti. Avete perso la strada del cielo, su di voi ricadrà il giudizio divino. Per potersi fare perdonare non basterebbero miliardi di preghiere. Chi si è arricchito con il sangue del giusto è un assassino, ha tradito il Cristo. Lontani da me, ipocriti credenti, voi allontanate il Padre dalle genti. Avete perso la strada del cielo, su di voi ricadrà il giudizio divino.